uno dei pochi ricordi di testi scolastici che mi è rimasto è una citazione del Petrarca che nel De Vita Solitaria del 1346 spiega la necessità di leggere e studiare citandosi Cicerone e Seneca. Cos'è più dolce di un ozio dedicato alla lettura? Scrive Cicerone. Gli fa eco Seneca. Un ozio senza lettura è come il funerale, è la morte, il funerale di un vivo. Non so voi, ma per me, che ho sempre inteso come ozio uno stato di inattività totale o quasi, l'idea di essere ozioso leggendo o magari studiando ha sempre dato un certo fastidio. Fastidio che non è dovuto all'equiparazione tra lettura e inattività, ma piuttosto a quella connotazione di spregio che, a torto o a ragione, accompagna il termine ozio. Storicamente l'argomento ha ripreso attualità durante l'illuminismo, e mentre il Beccaria discettava sugli ozi da ricchezze accumulate o su quelli politici, Adam Smith, seguendo la sua inclinazione, ne ha fatto un problema economico, sintetizzando il celebre concetto di attività improduttiva e situando in questa categoria di socialmente oziosi alcune testuali delle più gravi ed importanti e frivole professioni: ecclesiastici, legali, medici, uomini di lettere di ogni genere, commedianti, buffoni, musici, ballerini, eccetera. Naturalmente l'affermazione ha suscitato profondi dibattiti, sia per la teoria economica che per le implicazioni sociali che poteva trasmettere, ma per trovare qualche variazione degna di nota bisogna arrivare a John Stuart Mill, che definisce produttivo ciò che aumenta la ricchezza della società anche senza essere materiale. Il riferimento è ovviamente alla cultura nell'accezione del suo tempo. Ecclesiastici, legali, medici, uomini di lettere possono così rientrare in quella parte della società che vive producendo qualcosa che arricchisce comunque tutti. Marx, nel novero delle attività produttive, non comprende gli ecclesiastici e osserva che il lavoro culturale è pagato troppo per via di tradizioni antiche. In estrema sintesi concorda con Mill sul ruolo della cultura, ma aggiunge che produttivo è per definizione ciò che è finalizzato allo scambio. Spetterà ad Alfred Marshall di risolvere la questione, stabilendo che produttivo è ciò che crea utilità, che, tradotto in termini più pratici, sta a dire che qualunque prestazione dia luogo ad un pagamento, questa è necessariamente considerata utile e perciò stesso produttiva. E l'ozio, che sia o meno padre dei vizi, significa oggi la mancanza di un'attività finalizzata al lucro, e comprende tranquillamente i giri in bicicletta di Massimo, i modelli navali di Piero, la chitarra di Franco e, ahimè, anche i miei libri, proprio come dicevano Cicerone e Seneca. Evviva i soldi, dunque, evviva il fine di lucro che consente ai preti, maghi e astrologi di lavorare, mentre i volontari della Croce Rossa e di Médecins Sans Frontières oziano soccorrendo quanti hanno bisogno. Anche se io mi facessi in quattro, anche se ti accontentassi in tutto, so che è tempo sprecato. Le conosco troppo bene quelle che con la scusa di essere brave figlie sanno solo farsi servire. Hanno fatto